bastonato come un cane. Apro il portafoglio con quello che mi rimane. Rimane rimandare il giro di birrette. Avessi l'oro della comunione lo venderei. L'ho già fatto in passato per pagare affitte e bollette. In passato di cattiverie se te ne ho dette. Tu te le meritavi, anche se ora pago un mega prezzo. Tu che ci ricavi, tu mi criticavi perché è troppo grezzo. Ora chi ti chiavi, chi ti chiava da un pezzo. Una come te che segue il pettegolezzo. Non sai che usciva a scopare, tu a letto alle 9:30. Che cazzo ridi, parlo e tu che cazzo ridi, piango e tu che cazzo ridi, sbando e tu che cazzo ridi, cado faccia a terra e che cazzo ridi, parlo e tu che cazzo ridi, piango e tu che cazzo ridi, sbando e tu che cazzo ridi, e che cazzo lo trovi divertente, cazzo ridi, ho chiuso con te e ho chiuso coi preservativi, non chiudo col rap, grazie a questi individui, ti ringrazio e tu mi umili, un regalo per te, come l'altro Natale, un anello per dimostrare quanto sei speciale. Ma il bello è che me lo metta l'uccello e tutto il culo poi ti inizia a vibrare, perché sono un demonio, un maniaco sessuale. Manco avessi subito molestie da mai fa, ma io sono un deviato, un maniaco infernale. E tu che mai chiesto un'amica per un menage a trois? Che cazzo ridi, parlo e tu che cazzo ridi, piango e tu che cazzo ridi, sbando e tu che cazzo ridi, cado faccia a terra e che cazzo ridi, parlo e tu che cazzo ridi, piango e tu che cazzo ridi, sbando e tu che cazzo ridi, che cazzo strazio, metti su un cidio, un MP3, così mi uccidi, sono volte tre, così ne ridi e pensi un po' a Binè. Che cazzo gridi, che cazzo c'è, divertente no? Faccio rap per sti motivi e se chiedevi una canzone d'amore, pensa che non ho tirato fuori il peggio di me. Che cazzo ridi, parlo e tu che cazzo ridi, piango e tu che cazzo ridi, sbando e tu che cazzo ridi, cado faccia a terra e che cazzo ridi, parlo e tu che cazzo ridi, piango e tu che cazzo ridi, sbando e tu che cazzo ridi, che cazzo. Scaricate il mixtape culo per Vinello. Yeah.